Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Quanto contano i muri? E questa è la domanda da cui partiamo stasera. Io sono Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. I muri, dicevamo, quanto contano nel bilancio energetico della casa? Di sicuro c'è che nelle nuove costruzioni si pone grande attenzione all'isolamento delle pareti. D'altronde gran parte del patrimonio immobiliare italiano è vecchio, talvolta anche di secoli. Basta pensare alle migliaia di centri storici medievali sparsi ovunque per il paese. Allora giriamo subito la domanda al nostro ospite, che è Gaetano Fasano, responsabile del servizio di efficienza energetica nel terziario e nel residenziale dell'Enea. Buonasera Fasano, bentornato. Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dicevamo dei muri e esatto. Sicuramente sono il punto più critico dell'involucro edilizio. Consideriamo che mediamente la dispersione che avviene tramite queste partiture può variare da un 40 oltre il 60%, dipende un po' dalla tipologia di parete. E per tornare al discorso che si faceva inizialmente, dobbiamo considerare che il nostro patrimonio edilizio per il 70-75% è costituito da edifici costruiti in epoca antecedente a quella dell'entrata in vigore delle leggi che hanno un po' regolamentato l'efficienza energetica. Quindi chiaramente ci troviamo in periodi in cui troviamo, soprattutto per quegli edifici costruiti tra il 1955 e il 1980, situazioni molto critiche in cui si riscontrano anche consumi superiori a 230 kWh a metro quadro anno. 10 volte quello che consuma un edificio in classe A. Ecco, addirittura girano voci a questo proposito, le chiedo se lei ce le può confermare. Una cosa che si dice è che sono addirittura meglio le vecchie case che si trovano magari nei centri storici con i muri in piedi rispetto a queste case degli anni 70-80 che pure sono fatte in mattoni. Sicuramente è un dato riscontrabile e questo è dovuto da diversi fattori che adesso non possiamo qui evidenziare in maniera molto tecnica. Comunque possiamo dire che i muri di queste vecchie case, che sono muri che hanno una grossa massa muraria e anche se non hanno una grossa prestazione energetica, ma proprio per la loro massa riescono ad essere dei volani d'inverno per l'acquisizione del calore e d'estate, che è un'altra cosa molto importante, essere degli smorzatori dell'onda termica esterna che rende questi ambienti molto più vivibili rispetto a quelli che possiamo riscontrare in una casa di quelle di cui si diceva prima, in cui data la poca consistenza della parete, d'estate moriamo di caldo e d'inverno se non accendiamo i termosifoni stiamo al freddo. Decisamente, quindi abbiamo già capito che comunque c'è una tipologia di edifici che sfortunatamente sono la maggioranza, però sui quali forse potrebbe avere senso intervenire sull'isolamento, sull'involucro, che però è un'operazione mediamente abbastanza costosa. Ecco, come ci si fa a orientare e che tipo di interventi a seconda dei casi quindi si possono fare? Sicuramente l'intervento, diciamo, più immediato e di poco impatto economico è quello di isolare queste pareti dall'interno. Si perde un po' di superficie utile della casa, ma si acquista sicuramente in beneficio per quanto riguarda la bolletta, mentre invece se abbiamo un po' più di disponibilità economica si può pensare all'insufflaggio di materiale isolante all'interno dell'intercapedine di cui sono costituite la maggior parte delle case costruite in quel periodo. C'è un intercapedine in questi muri tipicamente che si può riempire quindi? Sì, tipicamente c'è una camera d'aria che varia da un minimo di 3 ma può arrivare anche a 10-12 centimetri, che può essere appunto insufflata con questo materiale che coibenta sicuramente in maniera più efficace la parete. Cosa più difficile dal punto di vista economico, non tanto operativo, è quello di fare il famoso cappotto, perché poi il cappotto naturalmente deve essere messo in opera con certe modalità e poi non ci risolve tutti i problemi dei ponti termici, che sono soprattutto quelli che afferiscono agli aggetti dei balconi o di pensiline che sono spesso a fregio dei nostri edifici. Ecco, quando parliamo di ponti termici parliamo di strutture che conducono molto efficacemente il calore. Il tipico esempio è quello del balcone, che essendo, come dire, una lastra di cemento all'aria ha una grande superficie e quindi si raffredda e si riscalda molto e trasferisce questo calore o questo freddo dentro l'appartamento. Sì, è questo diciamo, diciamo che questi nodi sono delle vie preferenziali per far uscire il calore. Mediamente diciamo che i ponti termici incidono tra un 10 e un 20% sulle dispersioni dell'edificio. Ecco, poi abbiamo molte situazioni intermedie, diciamo. Il cappotto è l'ideale perché poi, essendo una copertura totalmente esterna, protegge proprio anche le mura della casa dall'umidità, eccetera, eccetera. Però in molti casi è piuttosto costoso, servono impalcature e quant'altro. Invece ci sono molte situazioni intermedie. Mi viene in mente il classico tetto, il classico pavimento freddo, perché molte case, per esempio, al piano terra o al piano di sotto hanno box o cantine, comunque ambienti non riscaldati. Cosa si fa in questi casi? In questi casi è molto più semplice intervenire, perché se parliamo di un sottotetto o di un lastricato solare si interviene in maniera abbastanza semplice, soprattutto nei momenti in cui bisogna fare la manutenzione a questi pavimenti, mettendo un materassino coibente dal punto di vista termico e anche acustico, e quindi diciamo è abbastanza veloce. In questi casi si appoggia letteralmente sul pavimento, diciamo, del sottotetto, laddove non si deve camminare poi su questo pavimento. Certamente, certamente sì. Soprattutto nei tetti a falda, questa è un'operazione che ha un costo bassissimo, un tempo di ritorno che è inferiore ai 2 anni e mezzo, 3, poi dipende certo dalla tipologia. Va bene, grazie Fasano, a risentirci. Arrivederci a tutti gli ascoltatori e auguri per la trasmissione. Grazie per l'augurio, domani parleremo di risparmio energetico nel settore dell'informatica, insomma come ridurre i consumi di PC, monitor e periferiche varie. Io vi saluto, vi lascio a Oscar Giannino, buona continuazione.